Well, counterfactual history is extremely difficult, knowing what would have been. Penso che sia estremamente difficile guardare indietro e chiedersi cosa sarebbe successo se si fosse agito in modo più determinato sul fronte dei conti pubblici. Una cosa che si può dire è che quanto accaduto in Spagna poteva accadere anche in Italia. La Spagna, il giorno dopo l'approvazione delle misure di austerità, è stata declassata. E questo è avvenuto perché le agenzie di rating sapevano che la Spagna avrebbe fatto ciò che aveva annunciato, ma in questo modo ci sarebbe stato un rallentamento della crescita economica. Perché è a questo che portano le misure di austerità. Lo stesso poteva accadere in Italia. E visto che avete adottato misure di austerità, ecco allora il downgrade e la preoccupazione dei mercati su dove stia andando l'economia. Questa è la situazione attuale. Il punto centrale è dove si trovi ora l'Europa, con la rigidità dell'euro, con questo ruolo della banca centrale, con la mancanza di un fondo di solidarietà che aiuti i paesi in difficoltà. È quindi quasi inevitabile che un qualche paese abbia i problemi che l'Italia ha oggi. It is almost inevitable that one country or another face the kinds of problem that Italy is facing today.